Магнита по воротам Новониколаевку в сторону Симферополя. Ориентир АЗС с правой стороны на втором этаже. Добро пожаловать. Магазин автозапчастей для европейских текстей и полуприцепов. Наличие ассортимент гидроопнева, региональный подбор автозапчастей и своя доставка по Крыму. Мы находимся на трассе Таврида, поворот на Новониколаевку в сторону Симферополя. Ориентир АЗС с правой стороны на втором этаже. Scendo basso di radio. Sei 7 di segnale, prima di 9, adesso sei 7 e la radio è più bassa. Boh, otto, ora. C'è picchi positivi ma sei 7. E prima di 9. Ora tre. Magari come ho messo l'antenna, sicuramente la posizione basta un centimetro e l'antenna non risuona a me. Buongiorno, non stavo con la cimetta a cavallo bianco. Ecco, guarda che pedo, il bazooka e uso questo. Ancora più basso stai uscendo. Adesso sei 5. Ehi, cazzo, sto facendo questo stazionale, sei contento così brucio tutto. Oh yeah, ma chi non te la sa durante la sul tetto, boh. Non è piace anche andare così, cazzo, hai capito, non mi piace più, assolutamente non mi piace più. Se stai dicendo un fulmine in casa tua e ti fa 700 euro l'anno alla piazza dell'antenna, penso di no. non ci ho sentito, Valerio, non ho capito cosa hai detto. Sì, più basso del corrente. Che ho detto? Se mi fa un fulmine, un danno del genere, cazzo, tu penso che con questo centro antenna di baracchino non lo metti più. E così sto facendo io. Ah, così? Non le vuoi più mettere? Ma non lo penso più. E che cazzo mi piace a fare? Scusami, mi piace un bazooka e se la prende in culo, a un certo punto. Chi se la frega, cazzo, di uscire con la manto, ma qualcosa? Chi? Non me la frega più niente. Mazzucca non arrivi dai nocchi a coso, alla briga. Faccio tu 240 euro di danno, vabbè. Cosa fai tu? Cosa fai? Dimmi tu, a posto mio, cosa fai con 240 euro di danno? Che cazzo fai a un certo punto? Cosa dicevi tu? Dimmelo tu. Ma te la vuoi coordinare l'antenna uguale a quella di Bobo? Non le voglio più antenna di 7 metri, capito? Non me ne frega più un cazzo a me, capito? Non me ne frega più niente. Non me ne frega niente. Io voglio la vita mia e quella della mia famiglia. A me nel baracchino non me ne sbatto niente, hai capito? Il discorso è questo. E allora perché stai parlando se non te ne sbatto? Perché c'è la magnetica adesso, c'è la magnetica e basta, attaccata alla finestra, secondo te cosa devo fare? Boh, sì, vabbè dai, ma si può ragionare, ti ho detto che non te ne sbatterete nel baracchino, e allora perché stai parlando? Mi, vabbè, guarda, lascia perdere ciò che mi hai detto tu, la verità, perché la verità, io ho avuto più di 40 anni di baracchino, ma non mi è mai capitato una cosa del genere, la verità, dica. Però a me perdere l'appartamento, la famiglia e cose del genere, sono quello che ci ha buttato il baracchino nella mondetta, forse poco ma sicuro, è quello che sto facendo. Se mi piace piace una bazooka e va a culo, se no a me a un certo punto se la piglia in culo. C'è propagazione, ti stanno coprendo, non si capisce nulla di quello che dici. C'è una propagazione allucinante. Ah, vabbè, non c'è problema, perché non ti preoccupare. Comunque sia, a un certo punto, se mi piace la bazooka, io sono in mezzo al triangolo delle Bermude, quindi se è sceso una volta il fulmine, scende anche la seconda. Questo è poco ma sicuro, quindi non ci voglio più passare. Ho speso quasi 400 euro di televisori e non so io se mi conviene usare il baracchino. Attenzione canale 10, c'è qualcuno. Allora, scusa. Tranquillo, non c'è problema, fai quello che vuoi. Sto qua, sono l'ascolto. Comunque non mi faccio fulminare il cazzo da un fulmine. Perché cazzo è una cosa impressionante qua, hai capito? Io sono il triangolo delle Bermude, quindi a un certo punto basta 30 anni di CB, mai mi è capitato una cosa del genere, e quindi basta una volta sola. Sapete se dovessi scendere un fulmine in casa tua, tu cosa avresti fatto al posto mio? Spiegamelo. Ma non è che scendono sempre i fulmini, no? Ti è capitato una volta, ma non è che deve scendere sempre. E tu spiegamelo, che ti incendia due televisori che sono, che li ho pagati io, 200, cioè per prendermi il nuovo ho pagato 400 euro, dimmelo tu, a un certo punto, a me conviene, scusami. Perché cosa ti ha bruciato oltre la notella, anche tu l'ho messo? Mi ha bruciato i televisori. Hai capito? Tutti e due. E anche il termico di casa. Quindi in pratica, grazie a Dio, non ho pagato, ma ci sono quasi 200 euro di danno. Quindi figurati tu a un certo punto. Fatti i conti. Conviene a un certo punto, sì o no? Beh, hai avuto l'ambito esperienza, quello sì. Purtroppo sono cose che possono succedere, specialmente quando non c'è un parafulmine. Il parafulmine c'è, ce l'ho di fronte. C'ho la 15.000, e te lo sai anche tu, e c'ho anche i ripetitori. Quindi a un certo punto cioè il fulmine non è arrivato a casa, il fulmine è arrivato da fuori, hai capito, da Ossi, è arrivato, è da Ossi in orizzontale. Ho capito, sì. Vabbè. Purtroppo può succedere, è brutto quando ti succede, certo. Appunto per quello. Per quello che io antenna così non ne piacciono più, né Mantova né Tubo 2001, mai è successa una cosa del genere, avrei salvato. In 30 anni mai è successa una cosa del genere, mai. Vediamo un po', secondo come, se metto d'accordo, se piglio una bazooka, mi metto una bazooka. Almeno in plastica e sono tranquillo. Qui sono nel triangolo delle Bermude, hai capito? A certo punto. La bazooka è di gomma, non di plastica, è di gomma. È tipo un manganello. Esatto, in pratica la bazooka va bene. È l'unica cosa che non prende i fulmini, cioè chi ha preso fuoco è l'antenna della TV, in pratica la mantova e basta. L'antenna dell'ex 300 nulla, non gli ha fatto manco soldetto che gli ha fatto. È stato bello l'impianto satellitare del condominio, è stato meno anche quello della TV, quindi figurati tu, mi ha pigliato in pieno a me la mantova. Sono cicli i piedi a chi l'ho data, a chi l'ho regalata, e tu avanzati tu, perché io non voglio sapere. Ma a questo punto non dovresti guardare manco per il televisore, se ti ha beccato anche la tela TV, può anche beccarti la tela TV, il fulmine. Come ti ha beccato quella macchina, ti può beccare anche quella del televisore. E infatti il televisore mi ha bruciato. Uno, anzi mi ha bruciato due, non solo di uno. Addirittura, figurati tu. Adesso me ne ho comprati nuovi, e non sto più tranquillo. Nel caso di temporale stacco tutto, a parte il termico della corrente, hai capito? Però il problema sai cos'è? Che è scaricata a massa la mantova, hai capito? Nell'impianto di massa del condominio, e ha preso fuoco, hai capito? Perché è uscito il fumo, meno male non ho bruciato la parabola e anche l'intento centralizzato, solo mi sarebbe costato minimo 3.000 euro mi sarebbe costato, questo è poco ma sicuro, hai capito? Quelli si sono salvati, grazie a Dio, quindi a un certo punto sono rimasto salvo. Forse un miracolo, non lo so, quello che è, ma comunque il temporale è iniziato dalla parte di Ossi, il fulmine è passato orizzontale e mi ha preso in pieno la mantova e anche il coso, mi ha preso, figurati tu, l'antenna TV, mi ha bruciato due televisori, due, sono uno, due. Ho capito, è una rottura quando succedono queste cose. Comunque i punti non ha beccato le antenne, ma è entrato dall'elettrico, ha preso praticamente la centrale elettrica che c'era, la scatola, che ha incendiato un sacco di cose, gabbile eccetera. Penso, immaginate che io quando ho messo il fumo nel termico, hai capito, da luce di casa, ho messo il fumo, hai capito, ho dovuto cambiare il termico, ho dovuto cambiare. E ormai me l'ha cambiato un amico, che lo conosci anche tu, quindi figurati tu. Dopodiché è la stessa cosa successa anche nel palazzo a fianco, prima del mio, quindi in pratica il suono è partito da Orsi, orizzontale, qua, e ha beccato il piede a me, a quell'altra, e basta. Gli altri, neanche uno. Scusa, sono al telefono. E vabbè, fai pure, non c'è problema, nessuno fa l'ascolto, non c'è problemi di antenna. Picchiato, con la tua 2001 ormai che se si sa che è saltata, sembra che c'è a un certo punto deve essere ossidata eccetera eccetera, quindi non va più bene, quindi a questo punto come sto scendo in pratica, hai capito? La tua 1, 2, quello che è. Por ahí, 7-3 de Parta acá, que está por ahí.